12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, la puntata di oggi è dedicata alla figura professionale dell'interprete. Proveremo a capire che cosa vuol dire fare questo tipo di lavoro, quali sono i percorsi formativi che permettono di intraprendere questa carriera e quali sono le conoscenze richieste e le modalità d'accesso a questo settore lavorativo. Avremo ospite Claudia Caburlotto, interprete e docente universitaria, alla quale appunto chiederemo di spiegarci il mondo dell'interpretariato. Abbiamo fatto una breve ricerca sulla figura professionale dell'interprete per capire un po' meglio di che cosa si occupa e in che ambiente trova impiego. E abbiamo scoperto che sicuramente ricopre ruoli indispensabili nelle aziende che commerciano con paesi esteri, ma è una figura altrettanto fondamentale in tutte quelle società che offrono servizi di comunicazione, ovvero organizzazione di fiere, congressi, eventi di vario genere, uffici turistici. Ad un interprete si richiede ovviamente la conoscenza di almeno due lingue, da madrelingua, ma spesso anche delle competenze specifiche nel settore dell'azienda per cui dovrà lavorare. Nelle posizioni a contatto con il pubblico, inoltre, possono essere richieste anche spiccate capacità relazionali. Per quanto riguarda la formazione, si parte dal presupposto che esistono scuole di specializzazione e percorsi di studi universitari per imparare a svolgere questa professione. Questo però non esclude la possibilità per persone con un'ottima conoscenza di più lingue straniere, meglio se madrelingua, di proporsi come interpreti ed avere uguale o maggior successo, soprattutto se uniscono alla conoscenza delle lingue anche quella di un settore specifico. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora diamo il benvenuto alla nostra ospite Claudia Caburlotto, interprete e docente universitaria. Claudia, benvenuta a 12 minuti. Grazie mille, buongiorno a tutti. Claudia, che cosa vuol dire fare l'interprete? Allora, innanzitutto credo che sia molto importante definire bene questa figura professionale. Allora, l'interprete è quella persona che, conoscendo bene le lingue straniere, chiaramente almeno una, ma più lingue ha, più poi ha possibilità di lavorare, e sulla base di capacità e di tecniche acquisite durante la formazione, è una persona che diventa in grado di tradurre da una lingua all'altra in riunioni di lavoro, in conferenze, in convegni, ovviamente secondo poi diverse modalità. Giusto per fare un esempio veloce, le più famose sono l'interpretazione consecutiva e l'interpretazione simultanea. Durante la consecutiva l'interprete ascolta ciò che dice l'oratore, prende appunti secondo una modalità particolare di presa d'appunti e poi alla fine del discorso dell'oratore traduce quanto l'oratore ha detto. L'interpretazione simultanea, che forse è la più nota, è quella che avviene in cabina, in una cabina isolata acusticamente, l'interprete ascolta in cuffia ciò che l'oratore dice e in tempo reale, quindi in simultanea, lo traduce affinché il pubblico in sala possa capire. Chiaramente tutto ciò non è facile, bisogna apprendere non solo, dicevo, le lingue, quindi bisogna conoscerle assolutamente bene, e in particolar modo bisogna conoscere bene la propria lingua madre, non solo le lingue straniere come viene facile pensare, e poi ci vuole una formazione specifica. Ecco, Claudia, proprio in merito alla formazione, quali sono i percorsi formativi che un giovane deve seguire? Ecco, la cosa che mi piace sempre sottolineare quando parlo di chi è l'interprete è che non è solo una persona che conosce le lingue. Tante volte dico agli amici, ai conoscenti, faccio l'interprete, mi dicono: ah, allora hai fatto lingue. Attenzione, questo è importantissimo. Non basta conoscere bene le lingue, bisogna anche conoscere delle tecniche e sviluppare delle capacità. Per questo ci vuole una formazione specifica. Per esempio, ci sono tantissime università o scuole superiori, così si chiamano adesso, che preparano proprio la professione. Si chiamano università, corsi di laurea in mediazione linguistica e culturale. Mi piace fare l'esempio, eventualmente, visto che parliamo di realtà locale, una delle più conosciute sul mercato locale. Mi pare voi che siete di Treviso, no? Come radio, quindi... Sì, ecco, in realtà copertura regionale, sì. Ecco, potrebbe essere, per esempio, esempio il corso di laurea in mediazione linguistica e culturale dell'Università Ca' Foscari, che si svolge proprio a sede a Treviso. Oppure io sono padovana e parlo anche un po' della realtà, visto che sono docente universitaria, insegno sì a Ca' Foscari, ma insegno anche qui a Padova, per esempio in una scuola superiore di mediazione linguistica che si chiama CIELS. Ecco, sono facoltà, scuole che preparano gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro. Sono scuole in cui si fa anche teoria, ma si fa molta pratica, in cui si approfondiscono le lingue, i linguaggi specialistici, si apprendono le tecniche di interpretazione, quindi la consecutiva e la simultanea, ma anche la trattativa, per esempio, e si sviluppano tutte quelle capacità, perché l'interprete deve essere una persona che veramente sviluppa alcune capacità, la capacità di ascolto, di memorizzazione, di rispiegare una cosa con altre parole nell'altra lingua. L'interprete non traduce parole, traduce un senso, e quindi ecco l'importanza di capire cosa vuol dire l'oratore, dove vuole andare a parare, qual è la sua intenzionalità dietro il discorso. Sono tutte tecniche che sviluppiamo con i ragazzi, la ricerca di sinonimi e tanti altri aspetti che vengono sviluppati. Molto chiaramente, appunto, non si tratta solo di sapere una lingua straniera, no, ma insomma, dell'altro. I ragazzi possono anche decidere, per esempio, di fare una laurea triennale in lingue e poi iscriversi a una laurea magistrale eventualmente per poi apprendere le tecniche. Ecco, ci sono varie combinazioni possibili nel percorso di studio, l'essenziale è che però prima o poi i ragazzi frequentino un corso di mediazione linguistica e culturale o interpreti traduttori per prepararsi nello specifico. Certo, Claudia, prima di continuare a capire come magari anche si accede a questo settore lavorativo, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Come la prima bugia che sta sotto un letto, che poi è come uno scrigno e nulla è mai protetto, come in un gioco d'azzardo in cui neghi tutto e niente e non ci sono sentimenti. In un mattino senza sole, senza sosta, tutte le cose buone non le ricordi e basta. Una mattina dentro un bar, un silenzio quanto ti costa, come non detto ci pensano i tuoi occhi, come non detto non serve che mi tocchi, come non aver detto niente, tanto la verità al profumo del tuo cuore, come non detto ci pensano. Le volte che ti ho detto va bene, cancella e fai così. Come non detto. Tutte le spot e le strade per stare assieme e poi riperdersi. Come non detto. Non conta l'arrivo, conta il cammino, l'hai capito tardi. Come non detto. Ma la vita è dal vivo, finisce il sogno e ci si sveglia grandi. La seconda bugia che ti parte ancora addosso non ti serve uno scrigno per coprirti adesso, quelle sere in cui ti ho visto sempre dietro ad un filo con quel ghigno fuori posto e quel passo furtivo come un piccolo falsario in fondo a un vicolo e nessuno cascherà in un crimine così ridicolo. Progetto aperto, non siamo né la figlia modello né il figlio perfetto, le scelte di cuore, le prese di petto, le pezze a colore, la perfezione è solamente un concetto, l'amore che lega, l'amore che si nega, come una pietra al collo, il peso che ci allega, una pagina di vita che prende la sua piega mentre provi a parole, ma l'amore non si spiega. Come non detto ci pensano i tuoi occhi. Thank you. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Oggi parliamo della figura professionale dell'interprete e abbiamo ospite qui con noi Claudia Caburlotto, interprete e docente universitaria. Claudia, nella prima parte della puntata ci hai raccontato che cosa vuol dire svolgere la professione di interprete e quali sono anche i percorsi formativi da seguire e anche le competenze che bisogna possedere, che appunto ricordiamo non sono solamente linguistiche, come magari nell'immaginario comune si pensa, ma hanno anche a che fare molto con la comunicazione e l'interpretazione. Claudia, dallo studio al lavoro, quali sono a tuo avviso i passaggi che un giovane deve fare per lavorare in questo settore e quali consigli daresti appunto ad un giovane che volesse fare l'interprete? Certo, innanzitutto bisogna vedere un attimo quali sono i possibili sbocchi sul mondo del lavoro. Distingo due grandi filoni possibili. Uno è un ambito internazionale, perché vedo molti dei nostri studenti ambiscono poi a poter entrare a lavorare nelle grandi istituzioni internazionali, penso ovviamente all'Unione Europea, alle Nazioni Unite e altre istituzioni internazionali. A queste istituzioni ovviamente si accede tramite concorso e poi si può essere inquadrati o come freelance, quindi come lavoratori autonomi che vengono chiamati dalle istituzioni, oppure come funzionari, cioè come dipendenti delle istituzioni internazionali. Chiaramente lo specifico, c'è un concorso da sostenere per avere accesso a questo tipo di attività. Oppure c'è il mercato locale, quindi intendo il mercato da noi a livello cittadino, a livello veneto, ma anche il mercato nazionale, dove siamo inquadrati come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA. Il mercato locale offre moltissime possibilità di lavoro, chiaramente ambiti in cui è utile specializzarsi, penso alla medicina, penso al diritto, quindi ambiti in cui di solito ci si specializza e poi si lavora in quell'ambito, o il mercato aziendale, il mercato fieristico, il mercato istituzionale, che offre tantissime altre possibilità. Consiglio sempre nel passaggio dal mondo dell'università al mondo del lavoro agli studenti di vivere un po' all'estero, di effettuare stage, tirocini all'estero. Questo permette non solo ovviamente di approfondire la lingua straniera, ma anche di acquistare esperienza, perché il fatto di vivere all'estero, di imparare meglio, di approfondire una lingua e comunque di lavorare all'estero, permette loro di acquisire anche un po' di sicurezza nel mondo del lavoro. Una volta terminati gli studi universitari, in Italia abbiamo due grandi associazioni di professionisti che possiamo chiamare, se volete, associazioni di categoria, che sono AITI, l'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti, e Asso Interpreti. Sono due realtà a cui ci si può rivolgere non solo per accedere, ma anche proprio per avere eventualmente consigli su come potersi muovere. Devo confessare che non è facilissimo passare dal mondo del lavoro dal mondo dell'università al mondo del lavoro. Ci vuole un po' di pazienza, ci vuole un po' di calma, un primo invio di curricula alle agenzie, ai vari potenziali clienti, e poi un po' alla volta si viene chiamati la prima volta, bisogna farsi trovare assolutamente pronti e in grado di fornire una prestazione professionale ovviamente di qualità. E poi un po' alla volta si conoscono clienti, colleghi, diventa anche un po' un passaparola, diventa un sistema di lavoro. Se posso poi passare per esempio all'esempio personale, io mi sono laureata ormai 12 anni fa, anch'io uscita dall'università ho fatto questo giro di curricula, ho cominciato ad essere contattata, il primo lavoro, il secondo lavoro, conosci i colleghi e poi un po' alla volta si creano anche rapporti molto profondi fra i colleghi. Ad esempio io con altre 5 colleghe proprio recentemente abbiamo deciso di creare un gruppetto, un team di interpreti, abbiamo fra di noi diverse combinazioni linguistiche, esperienze anche in diversi settori, però così facendo possiamo offrire ai nostri clienti una vasta gamma di servizi. Ci siamo creati, abbiamo creato questo gruppo che abbiamo chiamato Interpreti VIP, con l'idea di Very Interpreting People, e insieme abbiamo unito i nostri contatti personali, le nostre realtà, abbiamo creato un sito che diventa anche quello fonte di lavoro per noi. Il mercato del lavoro è molto cambiato da quando io mi sono laureata 12 anni fa, adesso ci vuole anche un po' di inventiva, essere molto propositivi sul mercato, quindi Il consiglio spassionato è intanto mantenere sempre viva quella motivazione, quella passione che gli studenti avevano quando hanno cominciato a seguire un corso di interpretazione, alimentarla nel corso degli anni, avere idee chiare quando si esce dal mondo del lavoro e accettare anche eventualmente intanto quelle cose positive di questo lavoro, gli spostamenti, i viaggi, avere sempre mente aperta, ma anche non scartare eventuali altri lavori che magari apparentemente potrebbero non c'entrare niente con la nostra formazione, ma che ci permettono comunque di acquisire esperienza, di viaggiare, di approfondire magari una lingua, di approfondire anche il mercato del lavoro, che quando si esce dall'università è sempre questo sconosciuto, no? Quindi la curiosità, certo, e la voglia sempre di imparare qualcosa. Certo. Claudia, io ti ringrazio per essere stata qui con noi a 12 minuti, per tutti i tuoi preziosi consigli che ci hai dato, e ovviamente in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie mille, è stato un piacere. Buona giornata a tutti. 12 minuti, a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. A proposito dei percorsi formativi per intraprendere la carriera di interprete, vi segnalo le università che propongono corsi in questo campo. Università di Trieste, oltre alla laurea triennale in comunicazione interlinguistica applicata, sono attivi due corsi di laurea specialistica in interpretazione di conferenze e in traduzione. Per informazioni potete visitare il sito www.sslmit.univ.trieste.it. L'Università di Bologna, sede di Forlì, corsi di laurea specialistica in interpretazione di conferenze e in traduzione settoriale e per l'editoria. Per informazioni vi segnalo il sito www.ssit.unibo.it. Libera Università San Pio V di Roma, come a Trieste, sono attivi due corsi di laurea specialistica in interpretariato di conferenze e in traduzione. Per informazioni potete visitare il sito www.luspio.it. Infine l'Università Yulm di Milano, che propone un corso di laurea magistrale in traduzione specialistica e interpretariato nell'ambito della Facoltà di Lingue, Letterature e Culture Moderne. Per informazioni il sito è www.yulm.it. Siamo giunti al termine di questa puntata e prima di salutarvi, anticipazione sulla prossima, che sarà dedicata alla ricerca di lavoro in Germania. Quindi per chi fosse alla ricerca di un lavoro all'estero, occhio a non perdersi il prossimo appuntamento. E per oggi è davvero tutto, alla prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.